America, in the face of our common dangers, it seems unbelievable. I'm beginning a conversation with you, with America. Buongiorno America, di Stefano Pistolini. Take your time. And third, you've got to make sure that you are putting this commitment on a solid base, and the base is a little soft. Pensaci right now. Bene e assicurati che questo nuovo impegno abbia basi solide. Barack Obama parte per un lungo viaggio in Oriente e forse tira anche un sospiro di sollievo, perché quelli che a casa lo circondano in questi giorni, in queste ore, non fanno altro che tirarlo per la giacchetta sulla questione Afghanistan. Nella fattispecie, la voce che sentite in sottofondo è quella di un veterano che conta riguardo a imprese di questo genere, no? Ovvero Colin Powell, che gli ha appena detto: pensaci con attenzione prima di fare mosse molto impegnative che coinvolgano nuovamente gli Stati Uniti in una maggiore mobilitazione riguardo alla situazione in Afghanistan e alla sua soluzione. Ieri Barack Obama, prima di accomiatarsi per qualche giorno per l'appunto, ha incontrato nuovamente il suo nutrito staff di consiglieri in materia di sicurezza. Con loro ha esaminato le quattro, tante sarebbero, possibili opzioni per il futuro della presenza americana in Afghanistan. In sostanza poi non sarebbe altro che uno scaglionarsi tra i 10.000 e i 40.000 soldati da inviare. 40.000, la cifra massima, è quella richiesta per l'appunto dal generale Stanley McChrystal, il comandante delle forze americane in Afghanistan. Come sapete, da molte settimane ormai Barack Obama è titubante su questo nuovo sforzo, ma il tempo stringe, la situazione è gravissima, la situazione in Afghanistan viene inquadrata in chiave pessimistica praticamente da tutti gli osservatori più influenti e più ravvicinati. Un altro che nella fattispecie ieri ha parlato dopo aver incontrato Barack Obama è David Petraeus, il responsabile del comando centrale della difesa, che gestisce tutte le operazioni in Medio Oriente e Asia Minore. Tra l'altro, tra parentesi, una indiscrezione: sostiene che tornerebbero così a frullare voci di possibile candidatura per Petraeus per la corsa repubblicana alla Casa Bianca 2012. Lui ha sempre detto: non ne voglio sentir parlare, il mio modo di servire la nazione è questo, con una divisa addosso, non insistete, perché tanto anche se insistete non se ne parla, e puntualmente se ne torna a parlare. Ma sentiamo invece che cosa ha detto Petraeus riguardo alla questione Afghanistan. Our job is to provide our best professional military advice on how to accomplish the very important mission that the president and the country have set out for us. In sostanza noi siamo là tutti seduti attorno a Barack Obama, che poi è il comandante in capo naturalmente anche delle forze armate, per offrirgli tutti i migliori consigli, tutte le consulenze, tutte le risposte a ogni domanda necessaria affinché maturi la decisione giusta. Però ha aggiunto: ormai il tempo stringe, e quello che posso dirvi, la notizia che posso darvi, è che l'annuncio è davvero vicino. Emergono tra l'altro altre indiscrezioni riguardo alla questione Afghanistan, perché ci sarebbe stata una presa di posizione dell'ambasciatore americano a Kabul, che si chiama Carl Akenberry, già comandante delle forze americane in Afghanistan tra il 2005 e il 2007. Avrebbe scritto a Obama sconsigliandolo, vedete come appunto lo tirano per la giacchetta, sconsigliandolo a inviare rinforzi, almeno fin quando Hamid Karzai, il presidente afghano appena rieletto al secondo mandato, non darà quella famosa prova di voler combattere la corruzione e la cattiva amministrazione. Insomma, spiegare agli afghani ancora una volta, ribadire che l'impegno americano è a tempo, è uno sforzo immane e che non può essere certamente la piattaforma su cui un potere invece incerto e contraddittorio come quello afghano continua a poggiarsi. Primo piano. We'll be right back. Il primo piano di oggi lo dedichiamo alla partenza, per l'appunto, annunciata. Vi abbiamo detto tante questioni sul tavolino di Barack Obama, sulla sua scrivania dello studio ovale in attesa di soluzione, e però il distacco in direzione del mondo, in direzione in questo caso della Asia, che per la prima volta Barack Obama visita da presidente degli Stati Uniti d'America, una missione di 9 giorni, 4 nazioni visitate da Barack Obama. Tra queste 2 visite, come dire, di tranquilla cortesia in Corea del Sud e Singapore, 2 nazioni legate da strettissimi legami di collaborazione e anche affetto nei confronti degli Stati Uniti d'America, una visita molto delicata, quella in Giappone. Se ne parla tanto perché c'è dietro naturalmente tutto un non risolto, quel non risolto che ha fatto sì che fino ad oggi un presidente degli Stati Uniti d'America non si sia mai recato, ad esempio, a Hiroshima e Nagasaki, i luoghi dove vennero sganciate le bombe atomiche che hanno messo fine al secondo conflitto mondiale. Barack Obama ha detto che vorrà fare questo gesto entro il suo mandato presidenziale. Nella fattispecie ha invitato i sindaci di Hiroshima e Nagasaki, e il primo ha detto no, il secondo ha detto sì, a presenziare al discorso che terrà a Tokyo. E la tensione che Obama sta mettendo nei confronti del Giappone è psicologicamente forte, psicologicamente interessante, e sicuramente da un paese così attento a segnali di questo genere riceverà delle reazioni. Vedremo di che reazioni si tratterà. Comunque, dopo una sosta in Alaska nelle prossime ore, il presidente parte fra 2 ore per l'Alaska, sosterà a un paio d'ore a incontrare i rappresentanti dell'esercito, alti vertici militari americani in Alaska, poi arriverà in Giappone. Quindi però la tappa più attesa avrà luogo fra lunedì, martedì e mercoledì, quando toccherà alla Cina. Sarà prima a Shanghai, Barack Obama vedrà il sindaco della città. Per ora non sono previste visite ai cantieri dell'Expo. Poi seguiranno invece gli incontri di vertice martedì e mercoledì. Vedrà prima il presidente cinese Xi Jinping, parlerà, pare anche accennerà a temi dei diritti umani e del Tibet, ma lo farà sicuramente con la debita cortesia e i debiti riguardi, tanto più in casa dei suoi ospiti. C'è anche tutta una questione che affronteremo nei prossimi giorni riguardante il Tibet, che pare i cinesi porranno a Barack Obama, e riguarda addirittura niente meno che Abramo Lincoln, ma avremo agio di tornarci. Poi mercoledì sempre a Pechino, bilaterale con Wang Jiabao, visita alla città, e sicuramente molti discorsi legati agli andamenti dell'economia americana e al profondissimo coinvolgimento che in questo momento ormai la Cina, i capitali cinesi in particolare, hanno con gli andamenti americani. Seguiremo naturalmente da vicino questo viaggio, anche perché poi al ritorno in patria, come abbiamo già detto, Barack Obama ha tutti già pronti, no? I suoi pacchettini, i suoi pacchi, come quelli dei giochi serali, da aprire per scoprire dentro la sorpresa che può trovare. Лишь отрочки, бари, урбари, урбари. tenetela a mente, no? Sembra insomma un po' datatello, ma insomma un sano rocchettone americano. Ecco, ne parliamo tra un po', perché prima, scusate, ma dobbiamo dare spazio a dei nostri personaggi preferiti. Arrivano i Muppets! Cue and wake you up! Thank you, nice reporter. Oh, how I love the paparazzi. Wow. Oh, you do. I love the paparazzi. Thank you, nice reporter. Ma come resistere ai simpatici fantoccetti, nella fattispecie impegnati a fare la caricatura dei giornalisti americani. Ci sono due grandi reti che in questo episodio dei Muppets si scontrano. Una è la GNN, rappresentata da una papera con un ridicolo becco, ma l'altra soprattutto interpretata da Oscar the Grouch, che sarebbe Oscar il brontolone, il contrario per antonomasia, quello che gli fa sempre schifo, sempre tutto, è una rete televisiva che si chiamerebbe Fox News, e questo ha fatto naturalmente imbestialire la Fox News, che ha detto: ma scherziamo, adesso anche i pupazzi ci pigliano in giro. Poi Fox, tra l'altro Fox vuol dire varicella, no? Quindi la Fox News sarebbe notizie della varicella. Insomma, è nato immediatamente un caso, ci si sono buttati sopra i media americani, perché in questo momento la guerra tra testate giornalistiche, ma di più la guerra tra tutto ciò che si pare nascondersi dietro, in particolare i due colossi dell'informazione, la CNN da una parte, fin troppo progressista e filobamiana, e Fox barra Fox dall'altra, che invece è fieramente conservatrice, in difesa dei vecchi valori americani una volta, e anti obamiana ormai. Insomma, è veramente il caso del giorno, se ne parla continuamente. Ne abbiamo parlato lungamente ieri. Adesso ci sono stati festeggiamenti di Fox News dopo la dipartita di Anita Adan, no? Il capo della comunicazione della Casa Bianca, la moglie di Robert Bauer, l'avvocato personale del presidente Obama, che ha lasciato il posto al suo vice Dan Pfeiffer, e ha deciso che torna a fare vita privata, a fare quattrini facendo lobbying. Lei era quella che per prima aveva convinto lo staff di Obama a mettere gli stop a Fox, a scendere in guerra con la Fox, e addirittura si direbbe che poche ore dopo sarebbe già arrivato un effetto collaterale straordinario, ma che non, vi garantisco, ci lascia sorpresi anche a noi, perché la Casa Bianca, che aveva detto alla Fox: con voi noi non ci parliamo come minimo tutto il 2009, beh, avrebbe già concesso e concordato una intervista con la Fox. Il presidente riparlerebbe dunque con la rete di Rupert Murdoch, e allora ripensiamo a quegli incontri fra David Axelrod, il principale stratega di Barack Obama, e Murdoch, e poi Anita Dunn che se ne va, e poi Obama che riparla con la Fox. Ma allora la Fox che farà? Criticherà meno Obama? Ci crediamo poco, ormai ci sono elezioni già all'orizzonte, ci sembra strano che un armistizio sia possibile in queste ore. Di fatto, su tutta questa storia arriva la ciliegina, un'altra ciliegina molto clamorosa, questa. This will be my last broadcast here on CNN, where I've worked for most of the past 30 years. Il decano di CNN, uno che là dentro in quelle stanze conta parecchio, uno che ha inventato letteralmente CNN insieme a Ted Turner, che si chiama Lou Dobbs, il più discusso dei giornalisti, degli anchorman di CNN, se ne va, e anche questo annuncio è arrivato ieri. Dobbs era amato pochissimo, anzi odiato tantissimo all'interno di CNN, perché era politicamente disomogeneo con la rete, era un nemico dell'immigrazione, era uno che ha messo in dubbio addirittura i natali di Barack Obama, diceva che forse era vero che era nata alle Hawaii, ma che forse non poteva essere legittimamente presidente. Di fatto lascia, manterrà semplicemente uno spazio all'interno della radio di CNN, ma niente più show per Lou Dobbs, e già tutte le voci in circolazione che dicono che presto lo vedremo spuntare. E vi faccio la domandina tragica: indovinate dove? Alla Fox, naturalmente. Oh, vi avevo detto che si parlava un po' di musica. Vi ricordate il pezzettino che vi abbiamo fatto sentire due volte prima? È legato a una delle notizie che gli americani, buongiorno americani, leggono sui giornali oggi, vedono in televisione e imparano che c'è un rock pakistano. Era rock pakistano quello americanissimo, sembrava Springsteen, che sentivate prima, è rock pakistano questo qui. Se avete commenti da fare, per favore indirizzateli a quel fenomeno che si chiama globalizzazione. Dobbiamo smettere di pensare al Pakistan col turbante in testa. Lì arriva la televisione via satellite, lì arriva il messaggio dello show business americano e comunque globale. Lì nascono gruppi rock di questo genere e ce ne sono tanti in circolazione, sempre di più. Gruppi rock che guadagnano soprattutto con un mercato oggi essenzialmente televisivo. I concerti dal vivo ormai anche alla ore sono una questione piuttosto pericolosa da fare, da mettere in piedi, ma c'è una questione metodologica di contenuti interessante da sottolineare. Ne parla in un articolo del New York Times di oggi e sarebbe gli argomenti, i contenuti. Di cosa parlano le canzoni di queste band? Band che si chiamano per esempio Coven o Bamboo Bumbu, anzi Bumboo Sauce, e con altri bei nomi che trovate comunque online, parlano non più d'amore come hanno fatto fino a poco tempo fa. Il rock pakistano ha deciso di adeguarsi, ha deciso di parlare del grande malessere nazionale, della paura, della difficoltà, del tempo di guerra, delle presenze internazionali sul proprio territorio, e sta prendendo progressivamente posizione. Come sta prendendo posizione questo rock? In un modo assai poco americano, anzi, per dirla tutta, in un modo abbastanza anti-americano. E questa è la notizia, la preoccupazione che serpeggia in questi articoli che parlano del fenomeno. I talebani diventano improvvisamente non più dei terroristi, ma dei potenziali patrioti. Il nemico diventa, su base panaraba, sempre lo stesso. Chi si viene a occupare degli affari tuoi sul tuo territorio? In una parola, l'America. La grande America viene messa in discussione da questi cantanti, che poi intervistati, tra l'altro c'è anche un bel video sul sito del New York Times, lo dicono chiaramente: noi interpretiamo l'aria dei tempi, noi siamo musicisti, ma rispettiamo la tradizione artistica di posti, di paesi come i nostri, dove il musicista è prima di tutto uno che racconta quello che percepisce, che sente nell'aria, e nell'aria si sente questo, una grande stanchezza, una grande sfiducia per gli interventi che arrivano dall'alto, e tutto sommato l'idea di considerare, come dice in modo abbastanza inquietante uno degli intervistati, di considerare il problema dei talibani davvero il più piccolo dei problemi in circolo nel paese. E pensate un po', gli americani che si svegliano e mangiando fiocchi d'avena si sentono a manire Pakistan rock da giornali e media del loro paese, perché così cambia la globalizzazione, gli effetti, no? I punti di vista, i consumi nel mondo. Ve ne parlo ogni giorno. Buongiorno America, io sono Stefano Pistolini, in redazione c'è Gloria Guerrera, la parte tecnica a Roma è di Valerio Rocchetti e di Filippo Aureggi a Milano, la mail è buongiornoamerica è trade24.it, la pagina Facebook è redazione Jefferson 3, state tutti bene.